Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La provincia italiana. Un grande ventre caldo che genera un'umanità varia. Volti e storie piccole che però hanno fatto grande l'Italia. La provincia si stende quieta lungo tutta la penisola, girando distrattamente le poche grandi capitali del governo e dell'economia. Le cittadine che la punteggiano spesso hanno conosciuto i fasti di una signoria, di un ducato, addirittura di un regno, ricavandone un'importanza che, sebbene ora sia sbiadita, nei secoli ha lasciato non solo palazzi e chiese, ma un substrato di cultura e di creatività. Un humus molto ricco, che spesso si è riversato nelle grandi città, arricchendone a sua volta la vita metropolitana. Oggi a Destini Incrociati vogliamo seguire due storie di provincia che, nutrite dalle piccole cose che accadono nei paesi e nelle cittadine ai margini dei grandi eventi, una volta approdate in una grande città come Milano, hanno segnato con la loro creatività la storia italiana. La prima provincia da cui parte il nostro viaggio è Ascoli Piceno. Delle Marche, questa è la provincia più meridionale, dove il paesaggio collinare si incontra con le propaggini delle montagne abruzzesi. Una zona silenziosa, defilata, che degrada fino al mare e fino alla foce del Tronto, da dove partono centinaia di pescherecci. Ma nell'entroterra tutto è come fermo, congelato, in un respiro di bellezza che ha come culmine la città di Ascoli, stretta intorno alle tante chiese, alle torri e alla sua piazza del popolo, il luogo dell'incontro per eccellenza. Le 8 e 20. Le 8 e 35. Le 9 meno un quarto. Ma lei è qui? Non entra. Ma come mai è qui? Quello che avete appena ascoltato è un estratto dal film Alfredo Alfredo di Pietro Germi con Dustin Hoffman e Stefania Sandrelli, girato interamente ad Ascoli Piceno. Il luogo dell'appuntamento è ovviamente Piazza del Popolo. È qui che giungono quasi tutti quelli che sono nati nei dintorni campagnoli per crescere, imparare e forse in seguito spiccare il volo verso altri lidi. Da Piazza del Popolo ci sono poco più di 20 chilometri per arrivare al piccolo paese di Colli del Tronto, ma per il ragazzo con gli occhiali, timido e impacciato, che dal suo luogo di nascita arriva al capoluogo, significano molto di più. È una distanza siderale fra sé, l'impaccio e la sofferenza. Questo ragazzo si chiama Tullio Pericoli. Tullio Pericoli. Da bambino mi sentivo isolato. Temevo gli altri e il loro giudizio. Credo dipendesse in larga parte dal mio aspetto fisico, dal mio corpo indeciso. Sono i primi ricordi di Tullio Pericoli, così come li racconta in una sua lunga intervista ad Antonio Gnoli, apparsa sulla Repubblica qualche anno fa. Sono anni poco allegri per Pericoli, nato nel 1936 e già segnato da quel senso di inadeguatezza che, acuito dal disagio fisico, si trascinerà per tutta l'adolescenza. Non crescevo, tutti si sviluppavano fra i 14 e i 15 anni. Io ho cominciato a crescere dopo i 18. L'ho presa male. Temendo il giudizio dei miei coetanei, mi sono isolato e poi, come per reazione, ho cominciato a guardare i volti, a studiarli. Cercavo di capire chi fossero i buoni e i cattivi, i possibili amici o nemici. In breve tempo, Tullio Pericoli trasforma la sua unica gioia di quegli anni, il disegno, in un'arma invincibile di riscatto. Il disegno è stata la mia zattera. Ho ricominciato a vivere guardando. Ad Ascoli Piceno, il giovane Tullio, dopo anni di partecipazione abulica alle lezioni in classe, inizia a fare quello che più gli piace: tracciare linee, riempirle di colore, insomma, disegnare. Entra come tirocinante nell'atelier dell'artista locale Ernesto Ercolani. Sono gli anni 50. Il dopoguerra inizia ad allontanarsi per lasciare posto a un benessere ancora ingenuo e denso di promesse, tutte ancora da attuare, dove le scelte sono ancora possibili e i desideri sono il preludio al compimento della propria vita. Sono anni in cui è possibile, per un giovane disegnatore marchigiano, inviare i suoi disegni a uno scrittore, Cesare Zavattini, e vedersi rispondere, consigliare e persino aiutare. Baby, you thrill me. I need you. che Tullio Pericoli invia dei disegni a Zavattini. Oltre ad essere uno dei più grandi sceneggiatori cinematografici che il nostro paese abbia mai conosciuto, colui che ha scritto Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano e Ieri, Oggi e Domani con De Sica, o Bellissima per Visconti, Zavattini per lungo tempo ha scritto soggetti per fumetti. Sono sempre stato diviso tra il desiderio di scrivere e il desiderio di vivere, direi. Non so se si potesse riassumere e dire che la vita è una magnifica torta, è vero? Se 5 minuti di tempo hai per scriverla, per descriverla, 5 minuti di tempo li hai, è vero, per mangiarla, che cosa fai? Alla fine degli anni 30, nella densa vita di Zavattini, esiste anche un periodo in cui è direttore editoriale della Disney. Davanti a lui si srotolano ogni giorno le strisce dei fumetti americani, mettendo in moto la sua mente sveglia e curiosa. Tanto che quando c'è da sfornare una storia nuova, lui ne butta giù qualcuna senza firmarla, con il pudore di chi non vuole tradire una seria vocazione alla scrittura con i comics. Ma dopo qualche anno, sollecitato dal collega Federico Pedrocchi, Zavattini si impegna, scrivendo le avventure di Saturno contro la Terra, sulla falsariga di Flash Gordon, seguite da Zorro nella metropoli, Un uomo contro il mondo e La grande avventura di Marco Zà, dedicato al figlio Marco. È dunque perfettamente comprensibile che Tullio Pericoli, giovane disegnatore della sonnacchiosa provincia marchigiana, provi a mostrare i suoi lavori a un uomo con la capacità di comprendere e apprezzare il linguaggio visivo come Zavattini, il quale infatti lo invita ad andarlo a trovare. In quegli anni Tullio Pericoli frequenta svogliatamente la facoltà di legge, arriva a dare quasi 20 esami e a riflettere sulla sua tesi di laurea, ma senza entusiasmo. Dentro di sé comprende che laurearsi renderebbe più difficile riuscire ad allontanarsi da quella provincia che in quel momento sente come stretta e soffocante. L'invito di Zavattini è un'inaspettata finestra aperta su nuove possibilità. Andai a trovarlo a Roma con alcuni dei miei lavori. Lui li ha guardati e poi commentò: ma lascia perdere la legge. Al mondo meglio un avvocato di meno e un artista di più. Mi scrisse due lettere di presentazione, una per Gaetano Baldacci, fondatore del Giorno, e l'altra per Giancarlo Fusco. Furono i miei soli padrini. Incontrare i nuovi padrini significa trasferirsi a Milano, una Milano che appare lontana, persa nelle nebbie, mitica e irraggiungibile agli occhi di Tullio. È una costante. La metropoli, prima di accogliere il giovane provinciale, lo spaventa per saggiarne le capacità, capirne le reali intenzioni. Una volta completato l'apprendistato, fatto di fatica e difficoltà, di adattamento e solitudine, solo allora la grande città è pronta a succhiare le fresche energie del provinciale e a utilizzarle per alimentare le sue voraci necessità. Quando Pericoli giunge a Milano è il 1961, 50 anni fa. Vengono alla mente immagini in bianco e nero, gente frettolosa, le pellicce delle ricche signore della borghesia industriale, i ragunat che affollano i tram nelle ore di punta. Un mondo diverso dalle colline ascolane. Un mondo grigio, distante dai campi e dai colori caldi e terrosi, dall'Adriatico scintillante che si scorge in lontananza. Lo scintillio di Milano è solo quello del ferro dei suoi primi grattacieli, il grattacielo Pirelli di Gio Ponti e la Torre Velasca, inebrianti forse, ma anche spaventosi. Tullio Pericoli ha in mano le sue due lettere di presentazione, le sue chiavi per il paradiso. Con la prima, per il giornalista Giancarlo Fusco, entra però in luoghi molto lontani dall'Eden. Fusco è un tipo bizzarro, giornalista di razza, ma come capitato per caso dietro a una scrivania, viene da un passato turbinoso e scanzonato, fatto di mestieri come il ballerino, l'attore, fino al suo preferito, il pugile, che ha come unico risultato quello di fargli perdere tutti i denti in un incontro di poco conto. A Milano scrive per il mitico quotidiano Il Giorno, ma quello che a lui piace veramente è la vita notturna e le suggestioni della mala. Se ne stava alla sua scrivania fino alle 10 di sera. Lo raggiungevo e alla fine del lavoro lui mi portava all'Anthony, un night dalle parti di Lambrate, dove io trovavo qualcosa da mangiare e lui da bere. C'era gente che si toglieva il cappotto e sopra ci appoggiava la pistola. Le donne erano vistosissime. We'll be right back. Carlo Fusco, a modo suo, si cura davvero di quel ragazzo con gli occhiali, tanto che decide di presentarlo al vice direttore del Giorno, che lo prende come illustratore. Facevo di tutto, disegni per delle inchieste. Ricordo le prime inchieste di bocca sul miracolo economico, ma soprattutto la cosa che più mi piaceva era disegnare il racconto della domenica. Ricordo di aver avuto in mano le prime copie dattiloscritte delle cosmicomiche di Calvino, e poi Soldati, Bassani, Primo Levi, Pasolini. Sono anni di duro lavoro, nelle quali la tecnica di Pericoli si affina e acquisisce molte delle caratteristiche oggi così riconoscibili del suo stile. Uno stile fatto di linee sottili, di confine per gli acquarelli che altrimenti tracimerebbero verso il margine del foglio. Inoltre, la naturale tendenza verso la satira, tanto amata durante gli anni del liceo, aiuta Tullio Pericoli a tracciare appena pochi graffi per segnare i volti e i paesaggi che illustra. Il suo tratto è quasi più americano che nostrano. I segni sul foglio sembrano voler tracciare più le possibilità che lo spazio offre alla carta che riempirlo in un impeto iperdescrittivo che troppo poco lascerebbe al volontario atto dell'immaginazione. Sì, sono anni di lavoro e di pochi svaghi per Pericoli, e quei pochi svaghi sono spesso legati all'arte, come in quel 1963, quando a Parma si inaugura una grande mostra che celebra Renato Guttuso. Nelle ampie sale, la folla sfila di fronte alle grandi tele dell'artista siciliano che da più di 10 anni, già dalla Biennale di Venezia del 1950, lavora senza sosta alla costruzione di una sua teoria pittorica che la grande mostra parmense gli riconosce e celebra. Si tende a dare un valore poetico in sé della materia pittorica, ma non è questa la cosa che a me mi interessa. Io credo che la materia di un quadro è bella se l'espressione è completa. Fra le tele esposte a Parma c'è la celebre La spiaggia, un quadro imponente, 4,5 metri alla base, che conquista i visitatori. È quasi facile immaginare le reazioni dei tenui padani di fronte ai colori siciliani, di fronte alla violenza dei gialli e dei rossi, dei costumi indossati dalle donne stese sulla sabbia, alla tortuosità dei muscoli degli uomini che stanno asciugando il corpo appena usciti dal mare. Agli occhi di Tullio, arrivato apposta da Milano per visitare la grande esposizione, la sorpresa provata davanti a quei colori è solo motivo di gioia. È un incontro felice, ma che nulla ha a che vedere con un altro incontro che sta per accadere. Un incontro che cambierà la vita di Pericoli e dell'altro protagonista della nostra storia. Ci siamo incrociati per la prima volta negli anni 60 a Parma, a una mostra di Guttuso. Io ero un visitatore. Emanuele si occupava dell'ufficio stampa. Eravamo due ragazzini. Lì qualcuno ci ha presentati e per una strana affinità siamo diventati amici quasi subito. Qual è la strana affinità che lega un illustratore a un giovane addetto stampa parmense? Questione generazionale? I due hanno solo 4 anni di differenza. Stessa sensibilità nei confronti dell'arte? Amicizia spontanea? Fatto sta che Tullio scopre in Emanuele un vero amico, tanto che decide di invitarlo nella metropoli. Quel nuovo amico è il secondo protagonista di oggi e il suo nome è Emanuele Pirella. Emanuele Pirella. Poi lui è venuto a Milano, dove io già vivevo da 2 o 3 anni, e avendo io già un piccolo appartamento e una stanza quasi libera, l'ho ospitato per un paio di mesi. Poi lui si è messo in cerca di un lavoro e l'ha trovato. Il lavoro che il nuovo amico trova nella grande città non è però esattamente quello che Pericoli si aspettava da un ragazzo colto e intelligente come il suo amico Emanuele. Era venuto per fare il poeta e lo scrittore, si è ritrovato a fare il pubblicitario, ma secondo lui non c'era una grande differenza. Il pubblicitario. Nei primi anni 60 questa è una parola ancora strana, una professione agli albori, roba da americani. Advertising. Pubblicità. Deve essere molto divertente. Are you kidding? Sta scherzando? I'm an account man. Faccio l'account, trascorro metà della mia giornata in punta di piedi in mezzo a un gruppo di creativi infantili e lamentosi e l'altra metà bevendo con clienti ingrati e stupidi come delle rape. Quello che abbiamo appena sentito è un estratto dalla famosissima serie TV Mad Men, ambientata nel mondo della pubblicità americana degli anni 60. Nella serie ogni dettaglio è così curato, dai vestiti fino all'ultimo dei soprammobili distribuiti generosamente a ogni ripiano, da meritarsi un numero considerevole di Emmy Awards e Golden Globe nel corso degli ultimi 3 anni. La pubblicità italiana dell'epoca non ha molto a che spartire con il mondo di Mad Men, ma è anche vero che sono anni in cui la creatività riesce a trovare un suolo fertile, in cui la cultura di chi ci lavora viene ancora apprezzata e in cui soprattutto il rispetto verso l'intelligenza dello spettatore fa sì che ci si sforzi di lavorare su campagne di un certo profilo. Sono anni buoni per diventare qualcuno, ed è quello che sta per succedere all'amico di Tullio Pericoli, Emanuele Pirella. Tu sia figlio di un re o capo di stato, che tu sia buono come il pane, brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto oppure cane, guardia o ladro, non importa se sei fatto ubriaco. Puoi chiamarti dottore, puoi chiamarti scienziato, puoi chiamarti ufficiale, puoi chiamarti soldato, puoi persino morire. Destini incrociati. È il 1965 e Destini Incrociati è pronto a esplorare l'atmosfera di grande fermento che si vive in quegli anni a Milano, la capitale del sciurbrambilla e della nebbia. A seguire la storia di due giovani di 29 e 25 anni che in questo momento stanno entrando nel mondo del lavoro e scoprendo come possa diventare la parte più interessante della loro vita, quella per cui vale la pena spendere ogni energia. Milano è una città ancora disposta non solo ad ascoltare le proposte di due ragazzi svegli e intelligenti, ma soprattutto ha ancora il coraggio e la capacità di saperle mettere in pratica, di considerare la gioventù come un regalo dal cielo e non come un'età da prendere poco in considerazione e da mortificare con lavori sottopagati e privi di futuro. È in questa città accogliente verso le nuove idee che giunge il nuovo amico del disegnatore marchigiano Tullio Pericoli. Si tratta di Emanuele Pirella, un giovane parmense incontrato casualmente durante una mostra su Guttuso. Il ragazzo si guadagna da vivere lavorando nell'ufficio stampa della Galleria Espositiva, ma i suoi sogni sono ben altri. Ed essendo molto intelligente, anche tutti i suoi amici si aspettano che il suo nome acquisti in breve tempo la notorietà che si merita. Quando arriva a Milano, Emanuele Pirella ha poco più di 20 anni. Nasce infatti nel 1940 a Reggio Emilia, anche se in realtà cresce a Parma, la città che il poeta Attilio Bertolucci celebra in poche parole rivelatrici. Come capitale le competeva un fiume, a Parma. Ma siccome è una piccola capitale, le è toccato un torrente, spesso asciutto. Parma è l'esempio più classico di una provincia italiana ricca e goduta. Fin dal 500, grazie alla potente famiglia dei duchi Farnese, che ne fecero una piccola capitale ricca e colta, continuando con Maria Luigia d'Austria, la città si è arricchita di opere d'arte, si è nutrita di cibo raffinato e si è riempita di una solida sicurezza intellettuale, sostenuta dal benessere. È in questa città che Emanuele Pirella vive e si forma negli anni. Anni di studi e di buone letture. Gadda, Svevo, Flaiano, Buzzati, Hemingway, Fitzgerald, Stern, Dickens. Tutti si aspettano grandi cose da Emanuele. Così quando dopo la laurea in lettere e filosofia presa a Bologna, si presenta a Milano con lettere di presentazione addirittura del grande scrittore Elio Vittorini e del poeta Raffaele Crovi, tutti lo vedono avviato verso un destino da scrittore o poeta. La sua naturale collocazione sembra essere una casa editrice. Ma le cose non vanno esattamente così. Il settore inizia a essere in crisi, le case editrici non assumono e quando Pirella bussa alla loro porta gli viene suggerito di fare 6 mesi di prova in un'agenzia pubblicitaria. Si tratta solo di un'esperienza temporanea, giusto per non stare con le mani in mano, un modo rapido e spicciativo per annusare l'aria lavorativa milanese, prendere le misure e farsi le ossa. E poi chissà, potrà diventare un'esperienza utile per scriverci su un libro ed entrare da protagonista in quelle case editrici che ora lo respingono. Per lui si aprono le porte della CPV. Pirella ha finalmente una scrivania, un lavoro, dei colleghi. L'atmosfera in agenzia è divertente, stimolante. E poi succede l'imprevisto. Chiquita, 10. Emanuele segna il suo primo successo. Dopo 2 mesi indovinai Chiquita, la banana 10 lode. Gratificazioni, aumento di stipendio. E allora uno dice, sapete che c'è? Io sto qua acquattato e di sera scrivo i miei racconti e i miei romanzi. La scelta di restare in agenzia all'inizio non viene compresa dall'amico Tullio. Quando lui ha fatto questa scelta, io mi sono scandalizzato, l'ho molto rimproverato. Invece la sua scelta è stata preveggente. Pericoli non capisce, ma Emanuele sente che sta facendo la cosa giusta. Eri costretto ad un bagno di realtà, per cui passavi dall'aver studiato a doverti applicare, a concentrarti sulla differenza tra Ajax ed Ixan. Ma erano cose che potevano fare bene a un intellettualino come ero io allora, che rischiava di perdersi nell'ingiustificato. Una scelta preveggente, senza dubbio, quella di Emanuele Pirella. Nell'Italia del boom degli anni 60 aumentano i beni di consumo e la reclam, come viene chiamata, ha bisogno di essere attualizzata, intensificata. Nel 1957 nasce Carosello, il contenitore della pubblicità voluto dalla Rai. Un successo strepitoso lo consacra come l'appuntamento fisso delle famiglie italiane di quegli anni. Tutti i bambini italiani vengono cresciuti al suono della famosa frase «A letto dopo Carosello». Ma i siparietti di Carosello non possono continuare a lungo. Il linguaggio pubblicitario si fa via via più raffinato man mano che il consumatore diventa più esigente. In Italia iniziano ad arrivare le regole d'oro dell'advertising americano, quello di grandi personaggi come David Ogilvy. Il consumatore non è un idiota. Il consumatore è vostra moglie. Non insultate la sua intelligenza e non scandalizzatela. Molti consumatori non sono così sofisticati come voi. Emanuele Pirel impara presto la lezione e la fa sua. È abbastanza brutale, ma il compito principale della pubblicità è quello di convincere. Bisogna creare una specie di attitudine positiva nei confronti del prodotto e quindi rappresentare attorno ad esso un mondo di riferimento con dei suoi propri valori che siano convincenti per le persone alle quali ci rivolgiamo. Pirella si trova ad essere un copywriter, vale a dire un pubblicitario che idea la parte scritta o parlata dell'annuncio pubblicitario. Lavora in coppia con un art director, colui che invece si occupa della parte visiva dell'annuncio. Nel lavoro pubblicitario di individuale non c'è quasi nulla. A differenza dell'artista, che lavora chiuso nel suo studio in un rapporto personalizzato con la tela o con il foglio, il pubblicitario si trova all'interno di un sistema abbastanza complesso. Prima di tutto ha un committente, ossia il cliente che deve vendere i propri prodotti, e poi ha un pubblico al quale si rivolge. E tanto più lo si conosce, e tanto meglio gli si parla. In breve tempo, grazie anche al successo di Chiquita, Emanuele passa in Young & Rubicam, una delle agenzie più importanti di Milano. E stabilitosi in pianta stabile nel capoluogo lombardo, non smette di frequentare l'amico Tullio, di confrontarsi con lui sul mondo, sulla società che cambia, sulla vita. Il destino sta per giocare di nuovo le sue carte. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch! Daylight come and me one go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Ma l'agenzia non gli basta e ne parla con il suo amico Tullio Pericoli, che intanto ha iniziato a collaborare con Linus, la rivista di fumetti nata a metà degli anni 60. Con l'inizio degli anni 70, la rivista decide di aprire alla satira. Ed è in questo momento che si forma la coppia Pericoli e Pirella, vogliosa di misurarsi con un linguaggio diverso. Della loro collaborazione, Pericoli ricorda soprattutto il grande talento di Pirella. Aveva la grande capacità di elaborare le parole, di far nascere dei concetti attraverso le parole. Quando ci capitava di lavorare insieme, si potevano notare i diversi modi di procedere dei nostri due cervelli. Il suo era un cervello fatto di parole, da cui lui pescava e selezionava attraverso una gigantesca biblioteca che aveva in testa. Io invece andavo avanti per immagini. I due inventano le strisce di identikit di illustri sconosciuti e Dottor Rigolo, dal nome di un famoso ristorante milanese dell'epoca, vicino alla sede del Corriere della Sera, dove capita che i grandi giornalisti si incontrino con i finanzieri o i politici del tempo. Dottor Rigolo ha la capacità di riproporre le importanti conversazioni che avvengono fra le persone che stanno facendo la storia italiana, con il gusto sottile della satira che il pennino e la penna di Pericoli e Pirella riproducono in modo perfetto. Intanto Emanuele Pirella continua a mietere successi in pubblicità. È il 1973 e le città d'Italia si riempiono di enormi cartelloni pubblicitari per i jeans Jesus. Solo che questa volta non si tratta di annunci con i soliti jeans indossati da qualche modella sorridente. Questa volta si tratta di molto di più. Negli enormi cartelloni che campeggiano nelle città, i Jesus sono ritratti indosso a una modella di cui si vede solo, a grandezza indimenticabile, il sedere, con indosso solo un paio di minuscoli shorts di jeans. In alto uno slogan recita, è il caso di dirlo, «Jeans Jesus, non avrai altro jeans all'infuori di me». La fotografia di Oliviero Toscani è allegra e provocante al tempo stesso. E sono quelle cose di sogno, no? Come de... È chiaro, ci sono quelli che vogliono diventare ricchi e quelli che vogliono vedere i bei sederi. Per giorni e giorni la gente non può fare a meno di fermarsi con il naso all'insù in contemplazione del poster. Il 17 maggio il Corriere della Sera pubblica un articolo di Pier Paolo Pasolini intitolato «Il folle slogan dei jeans Jesus», simbolo per il poeta di un'immagine aberrante. È un mondo inespressivo, senza particolarismi e diversità di culture, perfettamente omologato e acculturato. Un mondo che a noi, ultimi depositari di una visione molteplice, magmatica, religiosa e razionale della vita, appare come un mondo di morte. Paradossalmente, l'invettiva di Pasolini contro Pirella è a sua volta un'ottima pubblicità per Emanuele, che poco tempo prima ha aperto la sua prima agenzia insieme all'amico e collega Michele Goetze. Il mio partner, che si chiama Michele Goetze, è un tedesco che anni fa venne in Italia pensando di starci 6 mesi, mentre invece ci è rimasto più di 30 anni. L'ho incontrato nel 65, quando eravamo due promettenti giovani di una grande agenzia internazionale, e abbiamo fatto coppia, fondando poi 2 agenzie insieme. La neonata Italia BBDO mette a segno molti colpi, fra i quali si ricorda la campagna per il quotidiano La Repubblica, fondata da Eugenio Scalfari nel 1976, che con migliaia di affissioni del volto di Craxi, che sembra dormire, ambisce a spronare l'Italia verso il cambiamento. L'Italia si addesta? Forse in quegli anni, anche grazie a Emanuele Pirella e alla sua creatività, il paese prova a darsi una spina dorsale, una coscienza. Ma non basta. La capacità di satira di Emanuele Pirella ha bisogno di allearsi ancora con il suo amico Tullio Pericoli per dare alla luce quello che sarà uno dei grandi termometri sociali e politici del nostro tempo. Prenderò sera questa febbre che sale, cos'è? Arrivi puntuale ed ognuno impazzisce per te. Il giorno forse hai qualche problema, sì, ma la notte ti trasformerà in una stella che brilla sopra ogni città. Destini incrociati. Ogni epoca ha la propria Madame Verdurin. E Tullio Pericoli ed Emanuele Pirella ci hanno gratificato della nostra Madame nella persona di Fulvia, che inesorabilmente ogni sabato sera raduna tutti quelli che, quanto ad intellettualità, contano qualcosa e credono di contare di più. Quelli che non contano nulla, ma si comportano come se contassero. Quelli che forse hanno contato, ma non contano da un pezzo. E cominciano addirittura a sospettare di non aver contato mai. Oreste Del Buono introduce con queste parole la raccolta pubblicata da Garzanti nel 1987, dedicata a Tutti da Fulvia il sabato sera, di Pericoli e Pirella. La striscia, che appare sulle pagine culturali della Repubblica, nasce da un'idea di Pirella che pensa a un salotto letterario per parlare degli umori culturali e sociali dell'Italia di quegli anni. Inizialmente concepita come una specie di recensione libraria, le strisce di Fulvia nel tempo riescono non solo a descrivere in modo lieve, ma anche puntuale, la società italiana degli ultimi decenni, ma anche a far conoscere la coppia Pericoli-Pirella in tutto il paese. Una coppia di lavoro, che Tullio Pericoli descrive in questo modo. I nostri ruoli erano abbastanza chiari. Emanuele era il responsabile delle parole e io del disegno, anche se poi, come succede tra uno sceneggiatore e un regista, la collaborazione porta a ruoli non ben definiti. Indubbiamente lui era responsabile delle parole, ma a volte le cose si mescolavano. Poteva essere lui a suggerire delle immagini o viceversa. La figura di Fulvia è vagamente ispirata a Maria Giulia Crespi, l'ex proprietaria del Corriere della Sera e attuale presidente onorario del FAI, ma anche a Inge Feltrinelli, che inaugura a Milano uno dei primi salotti culturali. Come le sue 2 ispiratrici, Fulvia accoglie ogni sabato sera tutti gli intellettuali del tempo con un'entusiastica partecipazione, che a volte ottiene il risultato di sottolineare le idiosincrasie dei suoi invitati. In breve tempo, le strisce di Tutti da Fulvia il sabato sera regalano tutte le settimane una galleria di ritratti che, se nei primi tempi raccontano gli atteggiamenti e le manie degli intellettuali di allora spesso vacui e snob, col passare del tempo finiscono per descrivere soprattutto la classe politica italiana, con la sua propensione per gli accordi sottobanco e il malaffare. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights all through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. Il successo è grande. Quella striscia diventa un momento per scoprire il lato debole della vita italiana, raccontato con la grazia leggera di un'ironia mai volgare, anche se sempre attenta e precisa. Un miracolo, se si considera che entrambi gli autori di Tutti da Fulvia il sabato sera non frequentano mai i salotti di cui parlano. Emanuele, pur facendo il salotto di Fulvia, era un personaggio che non frequentava i salotti. Pur essendoci occupati di politica, né lui né io ci siamo mai accostati a uomini politici. Aveva il talento particolare di analizzare i fatti della vita senza entrare in contatto diretto con essi. Guardava tutto da una distanza rilevante, ma aveva antenne acutissime. Insieme alla striscia di Fulvia, Pericoli e Pirel continuano la loro collaborazione sulle pagine dell'Espresso con cronache dal palazzo. E sempre sull'Espresso, Pirel tiene per anni una rubrica di recensioni televisive che gli vale nel 2000 il premio Flaiano. Al tempo stesso, continuano i suoi successi pubblicitari con slogan come «O così o pomì». Personaggi come il veterinario dell'Amaro Montenegro, il proprietario del pastificio Rana, il Reinhold Messner di Altissima, Purissima, Levissima, diventano famosissimi. Così come il tormentone di Nuovo? No. Lavata con perlana. Ma se è di cotone? Sì, ma perlana non è solo perlana. Perlana, passa parola. La pubblicità ha la particolarità di essere ripetuta. A differenza di tutte le altre forme di comunicazione, dove le cose avvengono una sola volta, per esempio un articolo esce soltanto un giorno sul quotidiano, la pubblicità invece viene ripetuta un numero di volte molto alto. Molti degli slogan di Pirella entrano nel comune gergo della gente. Forse perché è ascoltando la gente che Pirella riesce a ideare pubblicità forti, precise e immediate, mai retoriche. Un'esigenza, quella di abbandonare la retorica per una maggiore incisività e per un'arte che sia più vicina alla gente, che distingue anche il lavoro di quegli anni di Tullio Pericoli. Scoperto negli anni 70 dal mercato dell'arte, collabora per qualche anno con grandi gallerie, finendo per impararne tutto il bene e soprattutto il male, dal valore commerciale gonfiato alla tendenza creata dal nulla. Pericoli però resta nell'animo un uomo di provincia, una provincia sana che non sente alcuna attrazione per le lusinghe del critico o del mercante, e così decide di tornare ai suoi giornali, alla carta stampata che quotidianamente gli dà il polso del fare bene o male, senza trucchi. Una scelta di rottura che dopo un primo difficile momento si rivela quella più giusta per la sua arte. Pericoli sceglie di usare le pagine di Repubblica e L'Espresso come le sue gallerie d'arte di riferimento. E sorprendentemente, in questo modo, le sue illustrazioni vengono finalmente comprese e apprezzate per quello che sono realmente, vere gallerie di ritratti puntuali, intensi, rivelatori come quello dello scrittore Samuel Beckett, che lui stesso definisce una faccia paesaggio. Credo che quella di Beckett sia la faccia più bella del Novecento. Il suo volto potrebbe essere fatto con gli alberi e le colline di un paesaggio. Le sue rughe mi fanno pensare alla sua scrittura disegnata. Amo quel volto perché mi spinge nei segreti del mio lavoro. Gli anni zero, gli anni 2000, accolgono i due amici con la notorietà e il benessere che meritano. Un merito che loro restituiscono con il grande rispetto e impegno che applicano al loro lavoro. Pirella, a fianco dell'attività della sua agenzia, sceglie di aprire una scuola dove trasmettere agli allievi i segreti del suo mestiere. Un mestiere capitato per caso, ma da allora scelto ogni giorno con serietà e dedizione. Pericoli espone le sue opere sempre più dense, civili, e pubblica libri di paesaggi, volti, mondi interiori che illustrano un'epoca, ma soprattutto una riflessione sul mestiere dell'artista. Tutto va per il meglio, fino a quando Pirella non si ammala. In meno di un anno il male, rapido e impietoso, si porta via Emanuele. Lo strappa alla sua scrivania, al suo salotto, ai suoi amici. Fra questi, Gavino Sanna, il pubblicitario che ha inventato le famose campagne per la Barilla. Emanuele è stato per anni un pilastro della nostra professione. Ma non solo bravo, era una persona seria. E nel nostro mestiere trovarne di serie così era un po' problematico. A me manca molto... Come amico, come professionista, come tutto. Per Pericoli è un colpo terribile. Un mondo si chiude. Il sabato dopo quel 23 marzo del 2010, l'ultima striscia di Fulvia recita queste parole. Adesso che papà non c'è più, ridere di questa quotidiana sequela di banalità sarà sempre più difficile. Will guide